Il seme del verbo è in ogni uomo. Sappiamo che sono stati odiati e uccisi anche coloro che hanno seguito le dottrine degli stoici, per il fatto che hanno mostrato saggezza almeno nella formulazione del discorso etico, come pure in alcuni punti i poeti, grazie al seme del verbo che è insito in ogni razza umana. Sappiamo di Eraclito, di cui abbiamo parlato, di Musonio, nostro contemporaneo, e di altri. Come abbiamo dimostrato, i demoni hanno fatto sempre in modo che fossero odiati tutti coloro che si preoccupano in qualunque modo di vivere secondo il verbo e di fuggire il male. Non c'è affatto da meravigliarsi se i demoni, una volta accusati, operino in modo che molto di più siano odiati coloro che vivono non aderendo in parte al verbo seminatore, ma secondo la totalità del verbo che è il Cristo. Ma questi demoni, imprigionati nel fuoco eterno, conseguiranno la giusta pena e il castigo. Se ora sono vinti dagli uomini nel nome di Gesù Cristo, è prova della punizione futura nel fuoco eterno, la quale avverrà per loro e per coloro che li hanno adorati. Così tutti i profeti hanno predetto che sarebbe avvenuto e Gesù, nostro Maestro, l'ha insegnato. La pena eterna non è una terribile fandonia. Affinché nessuno dica ciò che è stato detto dai cosiddetti filosofi, cioè che sono millanterie e cose spettrali, quanto da noi affermato sul fatto che gli ingiusti sono puniti nel fuoco eterno e che inoltre, con la paura e non con ciò che è bello e piacevole, pretendiamo che gli uomini vivano virtuosamente. Risponderemo brevemente anche a questo. Se non è così, Dio non esiste, oppure, se esiste, non ha a cuore gli uomini, e la virtù e il male non sono nulla, e come abbiamo già detto, i legislatori ingiustamente puniscono coloro che trasgrediscono le buone leggi. Ma poiché essi non sono ingiusti, e neppure il Padre loro, che insegna mediante il Verbo a compiere le sue stesse azioni, coloro che in ciò concordano non sono ingiusti. Se qualcuno obietta le diverse leggi degli uomini, dicendo che per alcuni uomini alcune cose sono ritenute buone, mentre altre cattive, e che per alcuni sono buone quelle che sono cattive e cattive quelle che sono buone, ascolti ciò che viene detto riguardo a ciò. Sappiamo che gli angeli malvagi hanno predisposto delle leggi che corrispondono alla loro cattiveria. Di queste si rallegrano gli uomini simili a quelli, ma la mente retta, intervenendo, dimostra che non tutte le opinioni né tutte le dottrine sono buone, ma alcune sono cattive, altre invece buone, cosicché a costoro saranno dette da me queste cose e altre simili, e se vi fosse bisogno ne verranno dette ancora di più. Ora ritorno al mio precedente ragionamento. A noi si è rivelato il Cristo. La nostra, rispetto a ogni altra dottrina, è la più sublime, poiché a noi si è rivelato in tutta la sua razionalità il Cristo, nel corpo, nella mente e nell'anima. Tutto ciò che è stato affermato, sempre in modo eccellente, e ciò che scoprirono coloro che fanno filosofia o che istituiscono leggi, è stato compiuto da loro attraverso la ricerca o la riflessione in virtù di una parte della ragione. Ma poiché non conobbero il Verbo nella sua totalità, cioè il Cristo, spesso dissero cose contraddittorie. Coloro che hanno vissuto prima del Cristo, avendo cercato di osservare e di indagare le cose secondo la ragione umana, furono condotti davanti ai tribunali come empi e intriganti. Socrate, colui che più di tutti questi si impegnava con maggiore sforzo a ciò, fu accusato delle nostre stesse colpe. Dissero, infatti, che egli introduceva nuovi demoni e che egli stesso non riteneva dei quelli in cui credeva la città. Egli, negando la cittadinanza a Omero e agli altri poeti, insegnò agli uomini a deprecare i demoni malvagi e autori di quelle azioni narrate dai poeti. Con queste parole li esortava alla conoscenza del Dio ignoto attraverso l'indagine della ragione. Non è facile scoprire il Padre e creatore di tutte le cose, né è cosa sicura che colui che l'ha scoperto lo annunzi a tutti. Ma il nostro Cristo, con la sua potenza, lo fece. A Socrate, però, nessuno prestò una fede tale da morire per la sua dottrina. A Cristo, invece, a colui che era stato conosciuto in parte anche da Socrate, era ed è il Verbo che è presente in ogni cosa e che per bocca dei profeti e in prima persona ha predetto ciò che sarebbe accaduto e condividendo la nostra natura soffrente ha insegnato queste cose, non i filosofi né i letterati soltanto vi credettero, ma anche gli artigiani e coloro che erano del tutto ignoranti e che hanno disprezzato la gloria, la paura e la morte, poiché è potenza del Padre indicibile e non una macchinazione della mente dell'uomo. Il mito di Eracle. Non saremmo uccisi, né più potenti di noi sarebbero stati gli uomini ingiusti e i demoni, se non toccasse di morire sicuramente a ogni uomo che è venuto al mondo. Per questo motivo ci è gradito pagare il debito. Tuttavia, riteniamo cosa buona e opportuna ricordare a Crescente e a coloro che come lui sono fuori di mente quel mito narrato da Senofonte. Senofonte narrò che Eracle, giunto a un trivio, vi trovò la virtù e il vizio, apparsi nelle sembianze di donne. Il vizio, con un abito provocante e con un volto seduttore pieno di floridezza, ammaliatore nello sguardo, disse a Eracle che se l'avesse seguito avrebbe fatto in modo di farlo vivere sempre nel piacere, adornato da splendore e da una bellezza simile alla sua. La virtù, invece, trasandata nell'aspetto e nell'abito, gli disse: «Se tu crederai in me, non ti abbellirai della bellezza e degli ornamenti che passano e che muoiono, ma degli ornamenti immortali e splendidi. Siamo convinti, nel modo più assoluto, che colui che fugge le cose che sembrano belle e segue ciò che è ritenuto penoso e irrazionale, consegue la felicità. Il vizio, mascherando le proprie azioni con quanto è proprio della virtù e assolutamente bello, imitando ciò che è incorruttibile, esso niente infatti possiede né può compiere d'immortale, rende schiavi coloro che fra gli uomini sono ancorati alla terra, attribuendo alla virtù le proprie iniquità. Ma coloro che hanno compreso quello che realmente è bene sono anche immortali grazie alla virtù. Bisogna dunque che ogni persona saggia comprenda ciò che riguardo ai cristiani, agli atleti e agli uomini che hanno compiuto quelle stesse azioni che i poeti descrissero a proposito di coloro che sono ritenuti dei e argomenti in base al fatto che noi disprezziamo la morte da tutti temuta. Dal platonismo al cristianesimo. Io stesso, infatti, quando ero appagato dalle dottrine di Platone, sentendo che i cristiani erano calunniati e vedendo che non avevano paura davanti alla morte né davanti a tutto ciò che è ritenuto terribile, riflettevo che era impossibile che essi vivessero nella malvagità e nella brama del piacere. Chi mai, voluttuoso o intemperante e che ritenga buono il cibo di carne umana, potrebbe andare incontro alla morte per essere privato dei suoi beni e non cercherebbe in ogni modo di vivere sempre la vita di quaggiù e di sfuggire agli arconti e di non accusare se stesso per essere ucciso? Ora, i demoni malvagi hanno operato in modo che anche questo fosse eseguito per mezzo di alcuni uomini dannosi. Questi, per uccidere alcuni tramite calunnie contro di noi, trascinano alle torture i nostri servi, o i fanciulli, o le donne, e mediante terribili supplizi li costringono a testimoniare come fosse vero quello che è stato favoleggiato, e che essi stessi compiono in modo manifesto. Poiché nulla di ciò è affare nostro, non ci preoccupiamo, perché abbiamo come testimone dei pensieri e delle azioni il Dio ingenerato e ineffabile. Per quale ragione allora non confessiamo pubblicamente che queste pratiche sono buone e non dimostriamo che sono una filosofia divina? Perché non affermare di compiere i misteri di Cronos nell'uccidere gli uomini e nel saziarci di sangue, come si dice, così come avviene per l'idolo da voi venerato, sul quale aspergete non solo il sangue degli animali senza ragione, ma anche quello umano, e fate l'aspersione con il sangue degli uccisi per mezzo di un uomo che fra voi è il più insigne e il più nobile? Non diverremmo così imitatori di Zeus e degli altri dei nel violentare gli uomini e nell'unirci turpemente alle donne, adducendo come difesa gli scritti di Epicuro e degli altri poeti? Per il fatto che convinciamo a fuggire questi insegnamenti e coloro che compiono tali cose e quanti li imitano, come abbiamo propugnato con questi discorsi, nel modo più vario si fa guerra contro di noi, ma non ci preoccupiamo, perché sappiamo che Dio è giusto osservatore di ogni cosa. Volesse il cielo che qualcuno, salito su un alto podio, con la voce del tragico, gridasse: «Vergognatevi, vergognatevi! Poiché attribuite a innocenti le azioni che voi compite sotto gli occhi di tutti, gettando i misfatti vostri e dei vostri dei contro coloro che nemmeno in parte sono responsabili. Convertitevi, ravvedetevi. Io, sapendo che dai demoni malvagi le dottrine divine dei cristiani erano state alterate e rese perverse per deviare gli altri uomini, me la risi sia di coloro che mentivano in questo modo, sia di questo velo ingannatore, sia dell'opinione che era presso gli altri. Confesso di riconoscermi cristiano, di vantarmene e di combattere in ogni modo, non perché gli insegnamenti di Platone sono estranei a quelli di Cristo, ma perché non sono del tutto simili, come neppure quelli di altri, stoici, poeti e scrittori. Ciascuno, infatti, penetrando in parte in ciò che è congenito al verbo divino seminatore, parlò giustamente, ma poiché sulle questioni più autorevoli pronunciarono tesi contraddittorie, essi non paiono aver posseduto una scienza sicura e una conoscenza irreprensibile. Pertanto, quello che di buono è stato detto da tutti appartiene a noi cristiani. Noi onoriamo e amiamo, dopo Dio, il Verbo del Dio ingenerato e ineffabile, poiché si fece uomo per noi, affinché, partecipando delle nostre sofferenze, ne fosse rimedio. Tutti gli scrittori, grazie al seme del verbo innato e insito in loro, poterono vedere la realtà, ma solo indistintamente. Ma una cosa è un seme di qualcuno e un'imitazione data conformemente alla capacità. Altra cosa, l'oggetto stesso del quale è concessa partecipazione e imitazione, a seconda della grazia che da lui si origina. Pubblicate questo libretto. Vi preghiamo dunque di vidimare questo libretto, sottoscrivendo quello che vi pare buono, affinché anche dagli altri siano conosciute le nostre azioni e possano respingere le false opinioni e l'ignoranza del bene. Per colpa loro si espongono al castigo, affinché questa dottrina sia conosciuta dagli uomini, perché è nella natura degli uomini la conoscenza del bene e del male. Perché ci accusano, senza neppure averne conoscenza, di compiere tutte quelle turpi azioni che dicono, e perché si rallegrano degli dèi che hanno agito così e anche ora pretendono cose simili dagli uomini, cosicché, per il fatto di giudicare noi degni di morte, di carcere o di qualche altra cosa simile, come fossimo persone che compiono tali cose, condannano se stessi in modo tale da non aver bisogno di altri giudici. La nostra dottrina è la più sublime. Nella mia regione ho disprezzato l'insegnamento empio e falso di Simone. Se voi porrete la firma su questo libretto, noi lo renderemo manifesto a tutti affinché, se possono, si convertano. Solo per questo abbiamo composto questi discorsi. Secondo un saggio giudizio, le nostre dottrine non sono turpi, ma più elevate di ogni filosofia umana. E certamente non sono simili a quelle dottrine poetiche di Sotade e di Filenide, di Archestrate e di Epicuro, o di altri, e alle quali, sia fossero recitate, sia fossero scritte, è capitato a tutti di avvicinarsi. Per il resto non aggiungeremo altro, poiché abbiamo fatto quello che era possibile, augurandoci che tutti gli uomini in modo universale siano fatti degni della verità. Possiate dunque, anche voi, a vostro vantaggio, giudicare con giustizia come conviene alla pietà e alla filosofia.